rimane nata giornata. Ca vivo ancora così, non saccio più chi son chi, mi perdo in dei pensieri. Addostiva con me, addostiva con te, ma poi ci siamo trovati. Oggi cercate di capire, era solo a soffrire, perché sta da gelassata. Ma poi sapeva su lì, non ci faceva tutti. Ora si fuori stava ancora solo, a casa mi pareva che gioveva. Tu mi aspettava la notte che tornava, mentre sperava che tu già dormiva. Femmine, con un cuore ambiente che ci fatta a piezza, no penata femmine. Si con te non rire, si non ti respira, si non senti amore. Quando sta a nura e tu mi cerca ancora, mi volessi accidere. Voglio sapere, se non l'hai voluto vedere. Voglio sapere, si amava pure per me. E poi ci siamo cercati, meglio tu stessa a fornì, non dammi più le agapi, almeno ci hanno provato. Chilo non sono che ciui, ma le cose stanno così. Ma faccio ancora guerra che pensiero, quando sto solo penso sempre a ieri. Noi due persone ma una cosa sola, ma siamo solo due persone sola. Femmina, con un cuore ambiente che ci fatta a piezza, no penata femmina. Si con te non rire, si non ti respira, si non senti amore. Quando sta a nura e tu mi cerca ancora, mi volessi accidere. Voglio sapere, se non l'hai voluto vedere. Voglio sapere, se amava pure per me. Femmina, con un cuore ambiente che ci fatta a piezza, no penata femmina. Si con te non rire, si non ti respira, si non senti amore. Quando sta a nura e tu mi cerca ancora, mi volessi accidere. Voglio sapere, se non l'hai voluto vedere. Voglio sapere, si amava pure per me. Rimane nata giornata, non saccio più chi son chi, ma saccio tu mo chi si nato di pensiero.